Respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro. Oggi parliamo di rifiuti, un tema che interessa a tutti, del quale finalmente si comincia a parlare con una certa insistenza. Tutto è sicuramente nato con l'emergenza rifiuti che ha investito il napoletano, ma come sappiamo il tema è vasto, ha una lunga storia e va a toccare diversi tasti. Il nervo scoperto, come sempre, riguarda il sommerso, l'illegale, il mondo della criminalità organizzata, che sul tema rifiuti ha organizzato una vera e lucrosa impresa. L'altro nervo scoperto riguarda anche l'ipocrisia che sta dietro questo argomento. Tutti quanti noi ci aspettiamo che l'immondizia scompaia, senza però impegnarci seriamente nella riduzione dei consumi, nella scelta dei materiali che fanno da involucro ai prodotti che compriamo, nel chiedere maggiore chiarezza a chi produce. Ci riduciamo, nella migliore delle ipotesi, a fare molto spesso solo la differenziata di base, quella di carta, vetro, plastica e generico. Per intenderci, insomma, siamo tutti responsabili. Detto questo, però, le cose come stanno andando in Italia? Partiamo da un lavoro molto ben informato presentato da Assoambiente sugli impianti di trattamento dei rifiuti in Italia. Allora diamo il benvenuto al presidente di Fisiassoambiente, Pietro Colucci. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Colucci, partiamo proprio dal vostro lavoro che avete presentato alla stampa. Allora, in generale com'è la situazione italiana? Guarda, a parte il fatto volevo farle complimenti perché nella breve spiegazione che ha introduttiva di fatto ha riassunto le problematiche del settore in cui purtroppo versiamo da anni. Noi abbiamo tentato di fare un lavoro diverso dal passato, un lavoro che fosse in grado di fare un punto nave, perché questo è un settore in cui gli operatori privati e pubblici, le associazioni ambientaliste, la politica, diciamo, delle varie parti che poi è chiamata, diciamo, a fare le scelte, ha sempre soltanto dibattuto sul da farsi, proponendo delle soluzioni spesse volte dicotomiche, diciamo, senza tener conto degli aspetti specifici che riguardano le singole regioni, la difficoltà di collocazione degli impianti, la difficoltà comunicativa rispetto al fatto di spiegare all'utenza cosa e perché vanno fatte delle scelte e che tipo di scelte vanno fatte. Quindi questo è un tema che noi abbiamo voluto affrontare in questo rapporto, che non vuole essere soltanto un elemento propositivo, vuole essere un elemento di analisi che per questo motivo abbiamo affidato in un'ottica di assoluta terzietà alla fondazione dell'onorevole Ronchi, del senatore Ronchi, come tutti ricorderanno, ex ministro dell'ambiente, perché ci desse un suo giudizio, un'analisi assolutamente inconfutabile dello stato attuale del sistema impiantistico italiano. Noi riteniamo che le emergenze nazionali, che non sono solo quelle della Campania, che sono ben visibili, ma ce ne sono tante altre sommerse, di cui poco si parla, che però rischiano di esplodere nei prossimi mesi o anni, rappresentino uno spunto di riflessione su cui la politica deve intervenire. Quindi questo lavoro è il tentativo di far capire alla generalità degli operatori, non soltanto, diciamo, specializzati, ma anche quelli della politica che poi sono chiamati a prendere le scelte, qual è lo stato, diciamo, attuale del sistema impiantistico italiano e perché una società come la nostra, che punta a mantenere un modello di sviluppo industriale che è basato su una produzione, diciamo, forte, ricordiamo che l'Italia è uno fra i 10 paesi più industrializzati del mondo, debba avere un congruo sistema di smaltimento che gli possa assicurare la corretta, e quindi sottraendolo all'attività illecita, la corretta attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti, anche per mantenere gli obiettivi europei che ci sono stati assegnati. Ecco, detto questo, in generale la fotografia che emerge dallo studio che avete presentato qual è? La fotografia che emerge purtroppo è una fotografia un po' triste, perché mentre sottolinea, diciamo, il buon lavoro fatto da alcune regioni italiane che possiamo classificare, forse anche se da questo rapporto non ci permetteremo di dare giudizi su nessuno ovviamente, che però sono completamente fuori dall'emergenza, traccia un quadro abbastanza così preoccupante per alcune altre che saranno chiamate nei prossimi anni a fare assolutamente delle scelte se vogliono mantenere il passo e se non vogliono allargare la forbice, diciamo, di gap infrastrutturale fra una parte e l'altra del paese. Il quadro che ne emerge è che la maggior parte dei rifiuti ad oggi, sia urbani che speciali, quindi, diciamo, industriali, avviene con lo smaltimento in discarica, ancora siamo intorno al 50%, che la parte destinata alla termovalorizzazione è soltanto il 12% contro il 20% degli altri paesi europei, che esiste una potenzialità molto significativa di impiantistica destinata, ancorché disseminata in modo disomogeneo sul territorio nazionale, degli impianti destinati al recupero e riciclo, e che però viene largamente sottoutilizzata anche per un problema, diciamo, di mercato delle materie prime seconde recuperate da queste attività, e che sostanzialmente, se non si interviene prontamente, le quantità di rifiuti che vanno in discarica, che oggi rappresenta, come dicevo, la metà del sistema di trattamento del paese, rischia di vedere esaurita le proprie potenzialità entro soltanto 2 anni. Quindi se non si intervenisse prontamente con ulteriori ampliamenti, con ulteriori, diciamo, allargamenti delle quantità autorizzate, le attuali discariche vedrebbero esaurite le proprie capacità nel giro di 2 anni soltanto. E questo ovviamente è un quadro, diciamo, un po' non solo desolante, poteva fare, non si è fatto nel passato, ma anche preoccupante, bisogna intervenire rapidamente. Senta, ne ha accennato poco fa, com'è divisa l'Italia? Cioè, qual è la mappa degli impianti presenti in Italia? Quali sono le regioni più in affanno? Guardi, in questo senso, diciamo, noi abbiamo lavorato su dati ufficiali che sono relativi al 2007, ma con un aggiornamento, diciamo, fatto direttamente in contatto con le province e con le regioni, che sono rispettivamente gli enti deputati al controllo e all'autorizzazione. Il quadro che ne emerge è di un nord virtuoso, purtroppo, anche se alcune aree del nord, come la Liguria e come il Piemonte, non sono a regime, a differenza della Lombardia e dell'Emilia, che sono, come al solito, gli apripista di questo comparto, e è una situazione piuttosto, diciamo, invece grave al sud, dove alcune regioni sono ancora in una fase emergenziale, come tutti ovviamente ricordano, e delle altre in realtà mantengono una condizione non emergenziale soltanto per una grande capacità ancora autorizzata di discariche, ma con un gap impiantistico assolutamente, diciamo, pericoloso dal punto di vista delle scelte future. Ecco, in questo quanto pesa la lunga mano della criminalità organizzata proprio nella buona gestione di questi rifiuti e soprattutto dei rifiuti pericolosi? Guardi, lei ha messo il dito nella piaga. Il tema della criminalità organizzata è un tema che riguarda soprattutto la parte dei rifiuti industriali. Abbiamo visto con alcune, diciamo, audizioni in commissione sull'ecomafia che anche nel ciclo dei rifiuti esistono, diciamo, delle presenze, però sono più connaturate alla gestione dell'emergenza, dove la criminalità ha fatto è riuscita ad infilarsi. In genere il sistema dello smaltimento illecito riguarda i rifiuti industriali, e questo è un problema in parte culturale, ovviamente, perché sono le imprese che danno a queste, talvolta devo dire inconsapevolmente, nel senso che affidano ad impianti di trattamento e recupero dei propri rifiuti, e poi questi, lo smaltimento finale di questi avviene in modo illecito attraverso canali della criminalità. Ma più frequentemente il sistema della competitività delle imprese fa sì che per mantenere bassi costi le imprese cerchino delle scorciatoie, consce talvolta e talvolta inconsce, che li portano, diciamo, nel ciclo della criminalità organizzata, che proprio sui rifiuti industriali ha fatto, come dire, un business, diciamo, che tutti conoscono e che riguarda, diciamo, larga parte dei rifiuti industriali. Se noi pensiamo che la quantità dei rifiuti industriali in Italia come produzione supera i 70 milioni di tonnellate e che le capacità di smaltimento sono di gran lunga inferiori, ci rendiamo conto che c'è un gap che delle volte è una mancata risposta al sistema, nel senso che il sistema non è stato in grado di assicurare un livello impiantistico in grado, quindi disseminato in modo omogeneo sul territorio nazionale, in grado di assicurare un livello basso di costi di smaltimento e quindi consentendo alle imprese di mantenere una competitività con le altre, diciamo, colleghe e consociate europee. Questo è un tema, quindi, diciamo, il sistema della criminalità dello smaltimento illecito va visto in due modi: un'incapacità degli operatori e della politica di fornire un sistema infrastrutturale di smaltimento lecito dei rifiuti, e la voglia, conscia o inconscia, di alcune imprese di mantenere una competitività, cioè costi bassi di smaltimento, sfruttando canali che poi si rivelano essere canali illeciti. Ecco, un'altra cosa che nel corso delle varie puntate di questa trasmissione che si occupa di ambiente abbiamo segnalato e ci hanno segnalato proprio gli operatori del settore, cioè chi si occupa di riciclare, non so, ad esempio rifiuti elettronici ma anche altro, è il fatto che manchi una legge precisa, no, in merito ai rifiuti, cioè soprattutto se c'è cambia molto frequentemente, cambia di zona in zona, è così? È il tema di sempre. Noi lo spunto di questo rapporto, che è rivolto alla politica, è un appello sostanzialmente a mettere insieme le forze e le idee di ciascuna parte, perché il tema ambientale non è più un tema di destra o di sinistra, è un tema trasversale sentito da tutto il paese, da tutte le forze politiche, deve essere sentito da tutti gli utenti, come devo dire poi nel riscontro di tantissime anche trasmissioni di approfondimento radiofonico e televisivo dimostrano, cioè l'utenza, i cittadini hanno una particolare sensibilità ormai su questo tema, e questo grazie devo dire all'associazione ambientalista che hanno fatto, innanzitutto Legambiente, che hanno fatto un lavoro egregio ed enorme. Adesso tocca alla politica generalizzata intervenire con delle scelte. Ci vuole un quadro normativo che non cambi al cambiamento dei singoli governi di una parte o dell'altra, perché la tendenza è quella di disfare tutto quanto le amministrazioni precedenti hanno fatto con una tela di Penelope che non finirà mai, e quindi mettere insieme le buone idee, le buone pratiche, la competenza degli operatori pubblici e privati per trovare un modello, finalmente un modello di industrializzazione del processo di trattamento dei rifiuti che sia valido, diciamo, sia al nord e al sud, indipendentemente dalle amministrazioni di destra o di sinistra che governino il sistema territoriale. Io ripeterò, diciamo, all'infinito il modello, che è il modello che anche l'Europa ha adottato per sé. C'è bisogno di fare raccolta differenziata, ma approfondire quanta parte di quella raccolta differenziata si recupera effettivamente, rappresentando agli utenti che c'è un meccanismo allarmante che non è sostenuto dal governo e che invece andrà sostenuto, che il recupero e il riciclo funziona se il sistema delle materie che vengono così recuperate ha un sistema di costi, diciamo, di assorbimento abbastanza fissi, che non è lasciato completamente al mercato. Tenga conto che in questo momento le materie prime e seconde, per via della crisi mondiale, non le vuole nessuno, tra virgolette, quindi l'attività di recupero e di riciclo è fortemente in crisi. Non le vuole nessuno perché costano di più? Perché costano tanto, e quindi ovviamente la capacità di assorbimento di paesi emergenti che sono stati al traino, diciamo, della parte recuperabile e riciclabile, che sono India e Cina, sta segnando il passo e mettendo in difficoltà il nostro sistema, tant'è che noi abbiamo un'enorme quantità di impianti di riciclaggio disomogenea sul territorio nazionale, questo è un altro punto, però diciamo una grande quantità che non è al massimo della potenzialità in termini di sfruttamento, proprio perché la quantità di materia avviata al recupero è anche figlia della strozzatura, della difficoltà poi di collocare le materie recuperate, perché i prezzi sono in fase fortemente calante. Quindi raccolta differenziata con una grande attenzione al recupero, ma poi della parte non differenziata bisogna fare un sistema di trattamento tecnologico che guardi al futuro in termini di generazione, cioè che risolve un problema per una ventina d'anni, aumentando la parte di recupero energetico, cioè di termovalorizzazione, e riducendo la parte di scarica soltanto al trattamento degli scarti che da questi processi complessi vengono fuori. Quindi meno discariche, più impianti tecnologici e moltissima raccolta differenziata e recupero. Questo secondo noi è il modello che suggeriamo. E dunque puntata interamente dedicata al tema dei rifiuti. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Volevamo anche precisare, chissà se ci siamo riusciti, che dietro le emergenze si nascondono soprattutto in Italia problemi strutturali che hanno poco a che vedere con appunto l'emergenza, problemi che spesso hanno a che fare con la mala gestione, il mal costume e la mala vita. Per capirci, come si diceva in Johnny Stecchino, il problema dell'Italia appunto non è il traffico. Ci sentiamo tra poco. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico. Respiro. Seconda parte di Respiro, bentornati, io sono Cristina Carpinelli. Dunque, nella prima parte abbiamo parlato di rifiuti e anche di rimedi messi in atto e da mettere in atto. Abbiamo mappato l'Italia per impianti, per loro funzionamento, e abbiamo anche cercato di capire quali sono le strade da percorrere per affrontare questo tema. Adesso cerchiamo di fare una sorta di focus sui rifiuti pericolosi, lo facciamo assieme a Ghita Gorio, che è vicepresidente di Assoambiente. I rifiuti pericolosi sono una piccola percentuale rispetto ai rifiuti speciali impianti non pericolosi. Normalmente i rifiuti pericolosi pensi che il destino loro debba essere l'incenerimento. Ci sono alcune tipologie che possono andare in discarica, ma la maggior parte deve essere termodistrutta. Purtroppo l'Italia è sempre carente sia di discariche per rifiuti pericolosi, sia di impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi. Quindi c'è una piccola percentuale di questi rifiuti pericolosi che deve andare al trattamento in impianti esteri. Purtroppo esiste una grande percentuale di rifiuti pericolosi che ancora sono smaltiti in modo non legale. L'illegalità funziona perché noi abbiamo delle leggi che sono poco chiare e con interpretazioni molto personali da parte sia degli organismi di controllo sia dei gestori di questi impianti. Purtroppo noi consideriamo gli tanti impianti di stoccaggio come impianti di smaltimento finale e quindi questi rifiuti pericolosi passando attraverso questi centri subiscono, certo ci sono dei centri che funzionano in modo estremamente serio, ma ti dico molti centri perché ci sono 10.000 impianti di stoccaggio in Italia. Passando attraverso questi centri di stoccaggio subiscono una diluizione, per cui vengono mescolati con altri rifiuti, vengono mescolati con rifiuti speciali e escono da questi impianti non più con la classificazione di rifiuto pericoloso ma di non pericoloso e seguono queste vie di smaltimento molto. Allora lei capisce che un rifiuto pericoloso che avrebbe un costo di incenerimento di 300 euro, tu lo smaltisci in una discarica abusivamente attraverso questi meccanismi di falsi certificati e di falsi impianti a 120 euro, lei capisce che il margine è enorme. Ma esistono delle soluzioni? Io sono convinta che il comparto dei rifiuti è un settore non di grande potenzialità economica, è che è sempre sulla bocca di tutti perché è sempre in emergenza. Però sono problemi anche semplici da risolvere, facilmente risolvibili, è che di questo problema dell'ecologia tutti ne parlano. Le faccio un esempio: all'inizio l'inceneritore si chiamava, il forno che bruciava qualcosa si chiamava inceneritore, poi l'hanno chiamato, perché siccome nessuno voleva l'inceneritore, termocombustore. Poi gli hanno dato una visione più migliore, l'hanno chiamato termovalorizzatore. Fra un po' lei vedrà che non li chiameremo più neanche termovalorizzatori, ma dissociatori molecolari. Abbiamo parlato di termovalorizzatori, allora siamo andati a vedere quanto inquinano i termovalorizzatori e dunque costi e benefici di queste strutture da molti criticate. Per farlo abbiamo intervistato Daniele Fortini, che è presidente di Federambiente, che ha presentato una ricerca, la prima al mondo su questo argomento. Lo studio condotto da un gruppo di professori del Politecnico di Milano arriva a questa conclusione. Noi abbiamo lavorato anche su altre sorgenti che immettono in atmosfera le polveri fini ed ultrafini, in particolare il traffico, che come ci dice l'Agenzia Americana per l'Ambiente, ma anche l'Agenzia Europea per l'Ambiente, è la fonte di inquinamento primaria, inquinamento dell'atmosfera, poi le caldaie per il riscaldamento degli alloggi, degli uffici, delle attività industriali, poi le centrali per la produzione di energia elettrica, le centrali a combustibili fossili e quindi anche i termovalorizzatori. Per poter fare una comparazione fra l'impatto delle emissioni generate da un termovalorizzatore nell'insieme delle sorgenti emissive che creano gas climalteranti, ovvero qualità delle emissioni che possono avere un impatto sulla salute dei cittadini. Quindi è un'indagine ad ampio spettro condotta in 2 anni di ricerche con nuovi strumenti di misurazione. I dati hanno proprio la comparazione, e cioè presupposto, come è del tutto ovvio, che qualunque macchina inquina e quindi anche i termovalorizzatori generano un inquinamento, la nostra preoccupazione era di vedere quanto questo inquinamento incide nel territorio nel quale opera il termovalorizzatore e se questo può avere degli effetti sulla salute dei cittadini. Le risposte sono rassicuranti, nel senso che l'impatto inquinante dei termovalorizzatori è impercettibile, così li definisce la ricerca, e insignificante rispetto al territorio nel quale questi operano. Vale a dire, l'impatto di un termovalorizzatore è uguale a quello prodotto nello stesso arco di tempo di lavoro da 20-25 automobili. Quindi è veramente praticamente impercettibile, e se pensiamo che i termovalorizzatori sono per lo più dislocati in prossimità di autostrade nelle quali passano, sulle quali passano decine di migliaia di veicoli al giorno, il fatto che ci sono i termovalorizzatori che generano un inquinamento pari a 25 automobili è veramente impercettibile, insignificante, insomma è come fumare una sigaretta in una fonderia, insomma non è quello che cambia la qualità dell'aria. Ovviamente però il termovalorizzatore deve funzionare per bene, diciamo, e questo è un altro argomento, no? Cioè, su quali termovalorizzatori avete lavorato voi? Cioè, quali avete preso in considerazione? Abbiamo lavorato sui termovalorizzatori di 7 grandi, delle più importanti aziende italiane, quindi ci sono i termovalorizzatori dell'Emilia Romagna, della Lombardia, della Toscana, del Piemonte, quindi i più importanti ovviamente. È ovvio, questi impianti devono essere condotti con grande, grandissima professionalità. Devono essere impianti in cui c'è personale specializzato, nel quale si sono adottate tutte le forme di sicurezza possibili, in cui sono stati minimizzati i rischi. Ma proprio per questo devo dire che gli impianti di termovalorizzazione, proprio perché abbiamo questo livello di precauzioni, che è generato e sospinto dalla preoccupazione dei cittadini, e quindi siamo, come dire, sollecitati permanentemente a questa attenzione proprio dalle comunità locali, questi impianti hanno dei sistemi di sicurezza che sono, si dice in gergo, ridondanti, cioè c'è una linea di sicurezza, una seconda che interviene quando la prima non funziona e una terza che interviene sulla seconda quando non funziona neanche quella. Quindi lei è anche amministratore delegato della società che smaltisce i rifiuti per Napoli, della gestione dei rifiuti. Come sta andando adesso? Diciamo che la situazione è sotto controllo, quindi le cose non vanno male finché gli impianti di smaltimento ricevono i rifiuti, tutto sommato la situazione è gestibile, però potrebbe andare molto meglio e comunque siamo distanti dalla soluzione strutturale, siamo ancora distanti. Ma cos'è che paralizza, diciamo, qual è la ragione per cui nel napoletano non si sblocca questa situazione? Perché bisogna transitare da un sistema sbagliato, impostato e pianificato in modo errato, e questo è il mio giudizio ovviamente personale, si deve transitare invece ad un sistema evoluto ed efficace. Il sistema era imperniato su una soluzione che prevedeva di non avere impianti di discarica e pochi termovalorizzatori. In realtà la soluzione che invece si dovrà adottare, e ormai è quella decisa, è di avere discariche e termovalorizzatori in numero sufficiente ad assicurare lo smaltimento di quel 70% dei rifiuti che non sarà riciclabile. Questo è il punto vero. Il sistema fino ad oggi è stato orientato nel dire faremo il 50% di raccolta differenziata, il resto il 50% lo manderemo alla gassificazione e non avremo bisogno di discariche. Sbagliato. Di discariche ce n'è comunque sempre bisogno per tenere in sicurezza un sistema di gestione dei rifiuti. Adesso le discariche ci sono, ora si devono fare i termovalorizzatori e spingere avanti le raccolte differenziate. Dentro questo quadro, nell'arco di 3-5 anni, avremo la soluzione strutturata. La raccolta differenziata in un'area metropolitana da 3 milioni e mezzo di abitanti come quella di Napoli non potrà superare ragionevolmente, neanche fra 10 anni, il 35-40% dei rifiuti totale. Il 35% di raccolta differenziata è la soglia che ha raggiunto Barcellona in 15 anni, è la soglia di Berlino raggiunta in un ventennio, Napoli ha cominciato a fare la raccolta differenziata seriamente da 2 anni e quindi per raggiungere il 35% ha bisogno di ancora 4-5 anni, ma raggiunto il 35%, come anche a lei risulterà evidentissimo, abbiamo comunque un 65% dei rifiuti che non è raccolta differenziata, non è riciclabile, di cui dobbiamo sapere che cosa fare. È tutto, Respiro termina qui, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it, ci risentiamo sabato sempre alle 16.30 e poi domenica in replica alle 14. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.